523. Gian Maria. Oi, sì, Otto, buonasera. Va tutto bene, sì. A gonfie vele, so. Tutta gonfie vele. Beh, poco fa sono sceso e mi sono ritirato la macchina. Ed eccomi qua. Ma sei tranquillo. Lo credo bene. Aspetta. Approccia da mezzogiorno, dalla una, ma ha telefonato invece, ha fatturato un numero, ma poi se non rispondi a nessuno. Detto, qua non è arrivata la telefonata, ragazzi. A Baidadu è una troppa corsa, mette la mia, no. Senti, la telefonata da Isu, era un numero sbagliato, ma poi se non era il mio Isu. Vabbè, l'importante è che l'ha già fatta, tranquillo. Sì. I freni sono ancora, vanno bene. Le passi ancora sono buone. Così che hanno cambiato l'acqua reato, tutto quanto. Tagliosso, di ciaccato il manicotto, perché quello non ne ha rubinetto, bisogna ciaccare da sotto il manicotto. Allora li carrighi, sì o no? E l'ha messo tutta l'acqua nuova, ma l'ha fatto anche la vaschetta, ma l'ha fatto. Adesso è bianca bianca, è una di rosa, il liquido è rosa. E l'olio con la carticcia. Infatti quello rosso è quello più buono. Ah? E quello rosso è liquido, è quello più buono. Io sto mettendo sempre quello, capito? Da quando l'ho presa era sempre rosso, capito? E questi che già stava mettendo, già l'ha messo anche lui così, capito? Per cui almeno sono tranquillo che c'è il liquido nuovo e per il ferro va benissimo, capito? Otto. L'olio, la cartuccia va bene, e a me piace, già che se non faccio 2 chilometri, ma che prima di quel termine dei chilometri io lo cambio l'olio, capito? Io faccio sempre così, e l'olio è sempre pulito. Sì, no, già è così, sì, no, già è così che con quello non si ghiaccia mai d'inverno. Infatti è così, faccio anche a motocoltivatore. Mi ne sono preso 10 litri l'altro giorno, e anche quello lì io ogni due volte che morto zappo in campagna, poi prima di tornare a usarlo, no, scendo, me lo butto, lo metto in marcia, lo faccio girare bene, quando è caldo allora lo fermo e lo butto tutto quanto da sotto, capito? E lo rimetto sempre nuovo. Ma se tu mi andi a Baiti ed è pulito. Sì, no, già è così, sì. No, già è così che deve andare. No, io anche prima del periodo cambio, capito? Sto controllando in campagna anche molto coltivatore, come si chiama, il differenziale, controllato bene l'olio, e anche quello della presa. Io ogni tanto scendo apposta proprio per farmi questa manutenzione, capito? Così che io quando vado per molto zappare, sto tranquillo, metto la benzina e secondo colpo primo parte. Infatti, deve essere sempre a posto, deve essere. Deve essere sempre a posto. Infatti, cazzo, io ci tengo, ci tengo a queste cose. E così alla macchina, in realtà. Ho cambiato l'olio sempre prima del previsto, e lui infatti mi dice, beh, ancora può fare anche altri 1000-2000 km, lo cambio, lo metta nuovo, non mi interessa, faccia così, mi interessa che sia sempre pulito il motore. Infatti, deve essere sempre così, anche io a me fa quei chilometri, è coso, poi me lo segna nelle cose quando lo devo cambiare. Grazie. La cosa che bisogna deve essere fatta, bisogna farla, è inutile cioè, dire e ti dirà, ma che se anche voi che magari andi a risparmiare magari 10 euro, da voi vi rimborre 50. Infatti è così. infatti a me la dieta però dove si lascia io, ma avverte lui quando lasciagliela. Finita la tua o no? No, ma che iniziata la. Me deve dire quando gliela devo lasciare. Detto, guarda, la prossima settimana fammela ugualmente a chi. Non so dopo se c'è così, dimmi. Ah, però sei a piedi, so. No, sono con la macchina. Mi domani devo andare a Corsoine, devo andare a vedere la lupa. Ecco, fai domani, di mattina fai. Infatti vado domani mattina, così almeno sono tranquillo e so che gli appuso. Ok, fai bene. Almeno rimangono anche contenti gli animali, grazie a dire bene. Aspetto il padrone che ci faccia vedere, grazie. Beh, anche gli animali riconoscono queste cose. No, infatti quando mi vede è un bel contenta, specialmente con Piccio Bianco. Ma lo credo, ma capita così, infatti. Come le persone, ragazzi, anzi, gli animali sono più affettuosi delle persone. Questo già è molto brava questa qua, e poi c'è la compagnia là, e se ne ha tutta la zia, ancora, poi a fine novembre la dovrò portare su a Genova. Bene, poi ci mangio fatto una bella massaggiata, ci sono uscito alle 4 da qua, cazzo, sono comprato il campo sportivo, e io mi sono comusato nei giardini, un 10 minuti, mi sono riposato, ma poi mi sono uscito da Sio Giuseppe, io alla Buzibuti, a pigliare una bomboletta, spray. Da poi sono tornato a Ghiga a Luca Positivo, era mai dentro una partita che c'era, e così che da poi mi sono cuffarato, mi sono tornato a casa, sono questi 10 minuti, da poi tu mi hai già è ora, all'inizio che mezzo che farà a pigliarmi la macchina, era da pronta dalla una. Hai fatto così almeno, hai fatto una passeggiata. Cazzo, da tanto che non camminavo così, davvero, però già fa bene, dai, mi fa bene, cazzo. Si fa auguriato, cazzo, a camminetti, mi fa 10 ancora to, ma chi cazzo, non riesce più a camminare dritto. Quando si arriva a una certa età siamo tutti così. Ma è anche il cammino poco io, capito? È anche quello, che cammino poco, certo. Bisogna camminare, magari casa, fare giù, vabbè, ma bisogna uscire e camminare, fare un bel di strada per poterti risumare bene i muscoli delle gambe, capito? Infatti, voglio fatti così per i muscoli. Ma la Manzano, stava la mia, ho messo a caricare la batteria della bicicletta. Ma la mattina mi faccio un giretto in bicicletta, non ma lontano, sempre in questa zona qua, però una mezz'oretta me la faccio. Sì, se vuole così vuole, io se tutto va bene ma voto domenica. Ma tu esci fuori, io fuori così non ci esco, no, dentro sassi, ma scherzato stai. Saranno, certo. Anche se mi aiuta parecchio la batteria, però non c'entrano. Magari qua sì. Ma dentro Sassari no, troppo traffico, per cui se non mi abbasso il sedile sto male, abbassato magari il sedile riesci a mettere i piedi per terra e ti rimani dritto, capito? Ma se no non mi viene bene a me, capito? Ecco perché magari non mi azzardo, ecco. Vabbè, ma quello già è tutto un coso. Quando faccio nella pista ciclabile a voglia, non ce n'è traffico. Ragazzi, ho i semafori, ci sono anche le persone, perché camminano anche le persone in quelle corsie, capito? Per cui i segnali ci sono, e li ho visti, per cui non mi azzardo ancora. andasse più là, ma stava un po' difficile per trattarsi, capito? Beh, ma male male vada, posso farmi una scappata così e via Giovanni Pascoli qua, latte dolce, Santa Maria Pisa, questo giro già lo faccio, No, io mi avventuro fuori anche su strada di del coso e piste ciclabili dentro in città, se no e caguccio vai. Lo so, però prima mi devo allenare bene. Hai visto quanto da quando so che non la tocco, gatto, questa bicicletta, gatto, per cui è sempre ferma, mi ho comprato in tela apposta, bella coperta, così pigli il raffreddore in magazzino. Sono il pigli il raffreddore, capisci? E puoi immaginare, gatto, quel compressorino piccolino mi sono comprato da dire, è bellino, a te lo mette bomba. Sì, no, io non ho avuto tempo di far nulla, non so che da dire, non finirà di più. Vabbè, tutti uguali lo siamo, ognuno ha le sue cose e le sue idee eccetera, capito? È così, ma cosa ci vuoi fare tu? Mamma è perché già li portano quei compressorini lì, già li portano. Li portano sì, ogni tanto li portano e stanno sempre cambiando, grazie. Adesso devo prendermi quella motosega che si deve prendere Bacchisio, quella voglio prendere io e ancora non l'ho vista. Io ce l'ho, però è troppo lunga, mi pesa troppo a me, invece quella che una volta ho visto 2,50 metri o 3 metri mi sembra che sia, più leggera, capito? Più maneggevole. E voglio prendermi quella perché almeno quella la posso usare, ma quella che ho io in campagna no, è troppo pesante. Ti dirà pari brazzi, disse, oh, non ve la posso io, capito? Invece questa che deve prendere Bacchisio, quella è più leggera e quella è un giocattolo, capito? Basta mettere l'olio, attacca la corrente, oppure perché c'è la corrente e anche a motorino, capito? Sì, no, già lo so, sì. Quelle, già le torno a rimettere quelle cose lì. Lasciamo passare 2-3 mesi e torno a pulire. Infatti, allora. Ho preso quelle cose tonde per fare i buchi tondi, che a voi si chiama, anche quelle mi sono preso, certo. Oh, mia voce hai imparato dai slogu, per sempre anche cosa chi mi piace, il mio abbiglio, e Ida mi dice, ma cosa le fai, tu di questa roba non usi, ti che se ne frega, o daci pure una volta, qualche volta la uso, c'è lì, ma cosa le fai, tutti i buoni libri, non ti preoccupato. A voi del negozio, voi a tutti chi vi bussa. Sei in casa, servo tutto, serve. Sai cosa mi devo prendere, no? C'erano messo, ma devo prendere quella pistola per le punte, capito? Per le graffette, più quella delle punte. Quella mi devo prendere. Però non ce n'erano più. Se no avrei preso quella e più il compressore, capito? Però non c'erano. Stavo alzando quella pistola per ad aria, però per pistola ad aria, no, per il bollore della macchina eccetera. La buia di bestare il mio padre va a me, capito? Faccio una chiave da camitro che io, che è un bombocca, cioè almeno so che quella mi regola anche la stringa, il coso come la stringo, capito? Sì, no, quella sì. Io la pistola c'ho, ma si è trattata di voi, boh. No, ogni tanto io esco, anche quando usciamo a fare la spesa, no? L'acqua per esempio la pido sempre da lì, dalla torre, oppure qua di fronte alla centrale latte. capito, questi sono le voci sotto, sapete, da quando usciamo ho due cartoni d'acqua o altra cosa, che d'altra è, e andiamo sempre lì, e a cose andiamo molto spesso a come si chiama, a LD, lì di fronte al cimitero. Anche lì già costa poco la roba. Ci troviamo bene, là, lì ci troviamo bene. Per come, di cosa prendiamo la liga? Un po' da un punto, un po' dall'altro, anche a capo. Ogni tanto anche a capo entriamo e lì troviamo il pesce fresco anche, capito? Sì, c'è anche il pesce fresco lì. Infatti, lì anda a ciambà sempre, lì andando. Noi quando usciamo per fare la spesa facciamo il giro completo. 5-6 negozi facciamo. Andiamo a fare una cosa e arrego la macchina, un bagagliaio pieno. Andiamo. E allora, ma qui c'è la famiglia di Gozo, fa due persone, cazzo, va bene, due persone. Cazzo, sono i miei nipoti, sono qua di fronte. E sono di casa. E quindi allora, a voi, andate così. E allora, i soldi bisogna farli circolare, quando ci sono, se non ce ne sono, allora chiamate il Gozo. Poco e ci sono tanto per tirare avanti alla bella miglia, va. La voglia, certo, fate così. Allora, quello è brutto quando non segnate i soldi, quello è brutto, per cui tiriamo avanti bene, dai. Se no, pazienza. Ce ne sono che stanno veramente male veramente, storia, per carità, però ce ne sono parecchi, sono anche aiutati dalle queste dame di carità, eccetera, e no, che mi dice un bimbi, tu ripeti, romanzano, borsi pieni, andi nel torrente, tu ripeti, vale già quanto mi dice, e magari danno anche cose a chi non ne ha bisogno pure, tu, capito? Però ci sono anche quelle persone, anche se non ne hanno bisogno, vanno a rompere scatole, capito? E cazzo, basta a chi ne ha bisogno, invece no, a braniti, pare lì. Non lo sai che è così. Non hai bisogno di rompere le scatole, non ma adesso andare a ridere, cazzo. Che devo impedire di nada che tu dici. Anna c'è la vagogna, andate. Vediamo un po' se sentiasse al Macchisi. Attento Macchisi, io ci faccio ancora da prendere. Infatti. Sono a preparare la macchina, sarà. Può essere anche. Adesso già quasi alle 7:10 già. E per cui. Ce la preparando che noia, gatta, per carità, cosa si può fare, bisogna chiacchierare, andare avanti. Andiamo. Se non fermo così è un beso. Ma alla fine la mattina non stai accendendo più tu, però tu prima accendevi qualche volta, adesso non stai accendendo più, quando va giù dentro un voto. Quando c'ho tempo. Prima qualche volta ti sentivo, prima di mezzogiorno. Magari prima no. E invece adesso evidentemente sta anche da fare anche tu, per cui sorvogliamo, va. Infatti. Io purtroppo molte volte sono indaffarato, stamattina stavo zappando, qua sotto stavo pulendo. Amico, ma le mattine oggi non siamo usciti a nessun posto, perché non c'avevo la macchina. Domani, che sabato, domani dobbiamo uscire, che a fare un carro tutto, domani, sabato, e per cui vediamo un po'. Infatti, se no dopo in busciacca ci vadono a cosa, ci vadono. un sacco da tocchi che ha preso un rumore. Sono qua, sono qua. Eccole qua. Così è. Attento, ma chi io chissà cosa combinare lui, con lei decisamente Luca. Sì. Ed è così. Ai ai ai. Per carità. Meno male. Anche domani fa caldo a quanto ho sentito, cazzo, una gara in fricanno. Ha fatto un po' di fresco, gli ha fatto, ma la mattina c'è un po' di fresco, c'è. La mattina sta come se è l'accoglio, è sempre la brina, l'entore, cazzo, la macchina non si fuse, anche Manzano, va come sta a intrecarsi lo Manzano specialmente, però caldo ne farà ancora, Sì, caldo ne farà ancora, ce ne dobbiamo aspettare ancora di caldo. Ah, che ci vedremo piano piano fino a dicembre. Ma santo bicchieri. Oggi è santo cosa? Se mai, cazzo, da gioventù, cazzo, andava tutti gli anni, tutti gli anni andava via santo cosa, mi faceva un medaglio che l'ho fatto, cazzo. Ma dove, a San Michele? A santo cosa, mu, a Giaffe. Ah, mi domani mangiare, la beba sovizzina, la stazione, di Giaffe. A me, mamma e mio fratello, mi bruciava i tumbarella, mi bruciava, cazzo, altre cose, una di prima, Mattia. Domani mattina ci passo io, di fronte alla stazione. Tu passi sulla 131, lì c'è Cavalcavia per entrare a Giaffe, e a Romana, e ci sono passi che il ponte, e dopo più non so quanto, non mi ricordo quanti, un chilometro, sarà 2 chilometri al dietro di Cosseine, o quant'è, non mi rammento più. Un paio di chilometri sono. Già la conosco la strada, l'ho trafficata anche quando c'era la superstrada, certo, per carità. Allora adesso però tu ti appossi, non ti appossi, cazzo, la tiro la cosa lì, cazzo, e ci sono ricambi, mamma mia, la guarda lì, la strada. Infatti, è così, sì. Per carità, vai a saltare quella salita di Codrongiano lì, cazzo, tutta in dissenso quella strada, buchi, cazzo, per carità, cazzo. E da poco sono passato, no, di Tornocchi sono andato alla festa, che non mi immagina, tutta in discesa sulla strada, è un po' brutta, è diventata, cari, dai, non raccontami. Dice che non ha, l'ana se mi pare sia, dice che non ha di là, al contrario. Non ci sia niente, come è diventata questa carriera, sta via, carriera rifatta, fa caridare, ma non ha rifatta, dice che l'hanno rifatta. Vedrai, finché non si sente anche incidente, non si destina di farla a casa la cosa. Di solito fanno così, quando si sente anche cosa, da poi invece la palla. Gli sia niente, così, ma è mal ridotta quella strada lì. Alcuni pezzi sono tutti canti, tutto l'asfalto, ne ha alzato. Bella è bella quell'incrocio, quella deviazione l'ho fatto lì a Cozzo, dopo Florina, sulla pianura dove si incrocia per Proaghi, Olbia, eccetera. Bello quel pezzo, un bel pezzo, poi è bella la strada lì. Visto, solo che sono pezzo, però, no di più, non te ne ha gettato di più, solo che sono pezzo, Infatti, allora, quella è già perché è nuovo, magari, forse anche per quello. Ma, poi direi sì. Infatti, guardi loro come la devono fare. Che già il mezzo covettino prima, cazzo, l'ha caldo felice, cazzo, e in sette se ci rughi, caccia, poi la papa la ghigliaia, allora tutta bianca la strada. Io l'ho fatta, sa ricagliare, caccia, dove l'ha spostata in un giarugno, caccia. Caccia, non più vanno gatto di strada quando passava chi ci cambia le mani. Per carità, caccia. Però la paglia si può capire bene, dai. Sono in certi punti l'asfalto che ne ha azzardo. Che ne hanno fatta così, a me ne ha fatto, ne hanno fatta questa garrida. Di là l'hanno fatta vedere anche da poco, a Videolina, a Terra e Tre l'hanno fatta vedere, andava a Cagliari, gli occhietti bici, e lo so, spunta le macchine di fascia, rega, tutti a buchi, i baccari, dai, ragazzi, come te fate, ragazzi, vado a comprarla, ragazzi, la macchia dritta e quando ha già lasciata così aveva arrestato che comanda dell'ANAS, aveva arrestato a far vedere chi devono i fatti come si deve, vogliono non rattoppate. Me Marici si interessa solo ma meno stupendo volo non di accostare i strati, capito? Chi ci pensa alle stipendi redditi? Ma speriamo che si bruciano in busciacca, che si ribruciano. Ah beh. Cata, va bene una cosa del genere, ma fa manutenzione. Ma vivo un bel. Che pare ne vende nel nostro Google, ciao. Ma che storia. Carità. Cioè, se va a piglio, stiamo diventando, ma tutto. Tutti niente, magna, non pensare a quello che deve fare, no. A magna, basta, a pure in busciacca. Cassi da fuzzi, capito? Purtroppo, se ne sono ben niente che se ne affutti. Magari dopo c'è da fare la manutenzione, non ne fanno. E allora, dopo ci sono dei malasucci, allora si decide a fare cosa. Ti supporto da voi in città mercato davvero 2 anni pericolante, gatta, ma un mezz'anni me, meno male sono deciso di virillo, gatta. Tu si trattava di spendere un po' di soldi, e chissà quanto venezuelani pericolosi che ponti, gatta, ancora sono così, tira che si tira, gatta, finalmente non succederà che cosa. Ho visto che quelli sulla 131 e sugli altri posti li stanno aggiustando. Oh, ma chissà che per riuscire a decidersi di farlo proprio, uno bisogna farla che però hai già proprio caduto per troppo in dissesto, capito? Infatti è una cosa che non so come dovrebbero fare questi qua. A me pare che sei cognolo per la mafia oggi. Cazzo, mi pare che sei la mafia in mezzo. A tu mia cosa, ma chi avanza su te, troppi cose che non devi fare. Infatti, si vede tutto un casino, Baghizzi, Carindai. Quando sta salendo sulla 130, sta salendo dei pezzi, cazzo, bisogna la carriera la barra tutta cazzo mangiata da risoli che barra mangiata. Ah, c'è che ha risolato io sotto. Cos'è, Giomari? Un attimo, che ho risolato da giù. Sì, sono qua. Torre. Ehi, Giomari. Sono scendendo io, sono stabile la macchina che devo scaricare sotto il portone, che l'ho lasciata sotto il portone io. Che scendo giù, sono salmela. Io ascolto, siccome sto andando a prendere la signora, ci sentiamo dopo, dai. D'accordo, ci sentiamo dopo, dai, ciao. Ah, sento, ma chi, io? Santa Maria! Eccomi qua! Ehi, buonasera! Sono tornato! Sono qua, io stavo ascoltando! Là che ci sono loro chiacchierando! E stavo ascoltando! Oh, ehi! Sì, vabbè! E noi siamo qua! Ma chi sei tu? Non c'è qua! Bacchisio! Attenzione, signor Bacchisio! Deve essere che ha trovato qualcuno! Ha trovato il soffio, ha ciappato, dice che sta chiacchierato! E poi le chiacchierate di Bacchisio non sono corte, sono un po' lunghette! infatti! Vabbè! Aspetta per vedere se c'è... Oh, signor Marino! Ah, che quello è! Chi si sta pulendo ancora gli orologi della rete, e chi è? No? Poi la portante non entra niente. È la stessa persona che non ha gana, che è stanco anche lui, capito? E allora magari si fa notare e basta. Ma giù mai! Non passi, ma giù mai però! Ehi! Lascialo riposare che è meglio, va che sacco! Tutto il giorno lavorando, grazie a carne di cazzoni era oggi. Vabbè. Attenzione, signor Marino! Ha detto che non rispondeva a quello. Nonna di gara, sono tutti impegnati, grazie. Solo noi diciamo che non siamo mai impegnati. Ah, boh. Non lo so. Vabbè. Comunque, fa giù mai. Si copre quella portante. Era stata apposta. Perché ti facciamo parlare col mulo, come diceva Paoletto. Doveva essere forte, Gio Ma. Ah? Doveva essere bello forte. Doveva essere pompente. Evidentemente si è gonfiato adesso. E sta pompando a sgonfiarsi. Vabbè, non sai che è molto importante. Entra almeno, ga. Sono da gala. Sei stanco. Comunque lo passi lo stesso, tranquillo Giomani. Ah beh, vediamo un po' se risponde almeno signor Bacchisio. Attento signor Bacchisio. Ma tu non sei Bacchisito? Alla Leare. Ma si ride di ciò. Mi ha fatto assai a me. Ma... Vedo che mi va a dar male, non mi rende niente, non da me. Oh, ma come ti senti più, graziato, dove si senti l'orto a postarico? Ho attaccato al computer a mandare dei cicchi femmini. Ah, boh, non lo so. Non lo so. Vado a parecchio quella intrecci, E si è impegnato, capelli ribiatti, la vedi terra. Boh. E cosa ne so? Boh. Meglio che... Vedi che la maglia della moglie lo faccio travagliare. Un buon operaio Rusi ha avuto, Almeno gli fa fare tutto. Glielo paga bene Rusi, per cui deve lavorarsi quei soldi che gli dà Rusi. Andate. Si fa fare a riso a me. Impegnato di sicuro, E lo so portare, ecco, magari quando travaglia a Rosi e si muore una con la maizà. Vuol dire che piace così? Ah, controlla, capita. Però in casa travaglia Edu e Rosi la maizà. Non sono tutti così. Vabbè, vuol dire che ti piace così, domani. Andate. attenzione, signor Battisio. Mi nomi, basso basso, ma già ti sento. Ma da sei? Ma chi? Mettiti un foglio di carta o il bacchetto, mettiti. Almeno arrivi più in alto. Sei sicuro? Ah, c'è. Un po' questo, un po' questo, il tuo Battisio, cazzo. No, non lo riconosciamo più, brutto. Cosa bisogna fare la Vacchisio, gatto? Cacchi, ma in macchina sì. Sicuro? Ah, ma sei più forte. Ah, no, ma in alto sei salito. Sopra. Non t'ho inteso. Ah, sta la voce, ma chi? Grida, gatto, che ci sentiamo. Sicuro, sicuro. Se noi sicuri, la assicuriamo noi, per un do. Ah, sì, di così, Stiamo bene. Ehi, dai, continuate, vi ascolto, buonasera a tutti e due. Che sto facendo un lavoro in fino. Fine, fine. Ehi, ce l'ho in mano, cazzo, un lavoro in fino sto facendo. Un attimino, che metto due punti e poi arrivo. Vabbè, continua allora. Mi raccomando, ma chi, piano, senza farti male e senza sudare. Ok, ciao. Così è, Gianmarì. Andiamo così. Vai, facile. Noi lo lasciamo così. Marino, ci sei? Oh, cazzo, Marino, muro. È troppo indaffarato. Deve essere con i... con il nipote. Può essere anche. Se no sarebbe entrato, sì. Evidentemente impegnato, c'è gente. E vabbè. Vuol dire chiacchierarmi da soli, noi so. Gira in gira, parliamo da soli e ciao. Ehi, vabbè, ma arriva la gente. Ehi, c'è una amica. C'è la bestia, la Ianna. Ma come sei andato il birichino, bene? 5 perfetto, il segnale è buonissimo. Allora, siamo sempre uno di stazionari, sempre uno. Come 7-1? Un sacchetto ne ho, un sacchetto. Che è così allora? No, ma andiamo a messa delle divise, sempre un sacchetto. Ah, va bene, cazzo. A pensare prima, quasi due stazionari prima via, cazzo. Caro grido io. Andiamo a pensare che c'è un rumore. Delle cose di... Ma... Qua, quando stavo parlando io. Dopo che molli si sente come un trattore, boh. Non l'ho sentito io. Le cose, corremme, deve esserci qualche motore, boh. Ogni tanto anche qua, qualche volta, fa un certo rumore strano, no? Io ho detto, ma qualche... c'è l'autoclave, dice Saraccio, qua sotto, proprio sotto di me, sotto la finestra dove sono io. E quando scatta, lo sento io. Ma non basta che non c'è l'autoclave, infatti, di quello di fronte a me, c'è l'autoclave sotto. Ma infatti, fa attacchi, perché sente il rumore, dopo poi si blocca. Come fanno le autoclave, però non mi disturba, ecco. Però certe volte si sente qualche roba, ma sai cosa mi disturba? E questo è sotto di me, usa molto per fare l'aereosio. Quando fa l'aereosio sento un rosio qua. Ma nell'apparato? Quando attacca quella macchietta dell'aereosio, non entra come entra quella roba, Deve essere anche qua così. Però, non è che mi disturba, no. Insomma, lo sento un po' basso, però lo sento. Però non mi disturba. Però solo quando attacca la macchietta dell'aereosio. Sì. Però, non mi disturba. professore, ma per cui va bene così? Vabbè, adesso non c'è, adesso è libero. Vabbè, adesso è libero, sì. Se allora come adopera l'autoclave? Quello non mi disturba, no. Sento che quando scatta, però non da palazzo non lo sento, mentre invece quello della reso leggermente lo sento sull'apparato. Te lo prendi. Eppure è un bel nastro, boh. Però quando non si rompe quella, va bene così. Intanto siamo già fatta cadere a 10 minuti, siamo una sera. Adesso si è tornato a attaccare, adesso che la stanno adoperando. Vabbè, ma tanto non mi dice il bassale. Ah, lo senti? Deve essere autoclave, deve essere. Sei di quelli rumorosi, sì, no, questo qua è. Dai, deve essere scalmato, per rumore lo fa poco. La sento poco io, ma perché ho la finestra aperta. Se la chiudono lo sentono. A volte quando vado per l'acqua deve essere che si aziona. Vabbè, tanto non mi dice in beggia. Ce ne sono di quei grossi magari fanno un bel baccano. No, questo qua è piccolo, per cui non è coperto me. Siccome c'era nel cortile, l'ha coperto di una specie di cassettina in lamiera, se lascio la finestra aperta, quando scatta lo sento. Se chiudo la finestra non lo sento per niente. No, questo è tutto diverso come motorino e tutto quanto. No, non è che mi disturba più di tanto. Ma aspetta, so che è un rumore che è di su, mi capisco. Infatti, non è tanto che disturba parecchio, no, è leggero. Tranquillo, capito. Tranquillo allora. Avevo messo aperto, come si chiama, l'accordatore qua, il rosmetro. L'ho aperto, ci ho messo due lampadine di quella LED luce a freddo, quei piccolini, no? E la resistenza ce l'ho messa da 100, una si è bruciata già. Allora vuol dire che arriva troppa corrente lì. Però non dovrebbe stabilizzare la resistenza che c'è. No, aspetta, ogni LED deve mettere la resistenza, ce ne vanno due resistenze, due resistenze. Eia, e faccio così, boh. Che si è partita la resistenza di me e domani lo apro di nuovo e già c'è io la resistenza da 100, io da 75 da 100, ma io le metto da 100 che è meglio e le metto due lampadine colorate azzurre, gliele metto sempre a LED, sempre LED. E prima c'avevo quelle lampadine lunghe, a banane, però ogni tanto si bruciavano, allora avevo messo questa LED, queste piccoline a luce fredda, però ho visto che si è bruciata una, allora bisogna cambiare anche la resistenza per durare di più. Cos'è, ma sì, me lo ho capito, ma cosa hai detto? Ah, ma qui gente si va nulla. Ah, io ma chi, gatta? Ma insomma, alza la voce, gatta. Sai, se non si sento, gatta, non ti ho capito veramente. Adesso, no, sempre basso, non si sente. La portata è fortissima, ma la radio è proprio zero, Guarda adesso la radio. Adesso sei su ma chi? E vuol dire ci ha spostato qualche malassolte. Stavi dicendo. Adesso andate a dormire, avete chiacchierato anche troppo. Stava così, ma che almeno ti capiamo benissimo, bene, dottore. Ehi, io sono qua. Cos'è, signor Bacchi? Ho detto, tutti a dormire, aiù. Ah, io che andiamo a dormire, non andare. io stavo facendo il lavoro in fino, la faccio, mi sono rotto e ho mollato tutto. Stavo cambiando un transistor da quelle lineare là. Lo brucia, ogni tanto lo brucia. Allora, cioè, vuol dire che c'è il diodo che non serve. Adesso l'ho ricambiato, a domani a provarlo. Se c'è, si brucia adesso, c'è il cassonetto di fronte a casa, vola giù. Oh, guarda che non ci sia il diodo invece che sia bruciato e ti brucia il transistor. Domani a guardare, alla luce del sole. Cava nel diodo lo misuri. Già c'ho il metro e il decametro. In lunghezza è in cosa manda? In lunghezza è in circonferenza. Andiamo. Dai. Non è così, Gian Maria, si misura quello decametro e il metro. È così, così come stai dicendo Macchisio, Vabbè, io ve lo dico da voi. Allora, signor To, cosa mi dici? Dai, il 14, puoi venire solo a fare la partenza e poi da qui. Certo, è una parola, gliela faccio, perché mi devo caricare la macchina anche io, hai compreso? A caricare devi, la carichi dalla mattina. No, non hai capito, per portare la roba in sala devo caricarla dalla casa sua alla sala, e dobbiamo caricare sia la sua che la mia. Ah, ho capito. Dove caricare la macchina. Ebbene, prendi il carrello e metti dentro il carrello. Sì, chi so che non ha giù. Te lo presta Gian Maria, te lo presta il carrello, basta che ti lo porti pieno di dolci, te lo dà subito. Cosa resta Gian Maria, ma chi? Il carrello oggi la torre presta, poi te lo riporta pieno di dolci. Ah, ma i dolci fanno male, capita. Posso nemmeno prestarglielo io il carrello, perché è dalla macchina mia, se lo trovano un carrello mio, grazie, arresto a me e a lui. Tu c'hai quello con la targa della macchina? Io ce l'ho solo per la macchina mia, hai capito? Non è come il carrello del gommone, è tutto altra cosa il carrellino, capito? Solo io lo posso usare con la macchina mia, non lo posso dare a un altro, capito? No, non puoi dare no, perché la targa corrisponde solo sulla tua, se no bisogna cambiare targa. Bisogna fare l'autorizzazione, una targa ripetitiva, capito? Non so se lo fanno, penso che lo fanno, perché fanno a carrello e dovrebbero fare a carrellino, no. No, quello è così perché è appendice, e c'è solo la targa tua della macchina, basta. Non è matricolato quello. Infatti, ma lo so che è così. Okay. Va bene, vai, io vi saluto, che chiudo, che mi sta chiamando la signorina qua, vuole aiutarla, per cui la approfitto, vai. Comunque, se serve il carrello, basta dirmelo, e vengo con la macchina mia a caricare, se è cosa buona, io me ne porto un po' a casa. No, Gian Maria, è che alla processione manco, e ci vuole un'altra persona. Beh, ma che roba pesante. No, sembra solo di camminare. Ma chi c'è allora? Già è forte lui. No, che siamo in tre siamo, mancando io sono in due, quindi ci vuole un'altra persona, ci vuole. Quindi è quello che stiamo guardando, di cercare una persona. Io so già, sai che forse non le posso fare, per cui se ripeto, se sei nel carrellino posso attaccare la macchina mia, posso farlo un cose del genere, capito? Però magari io non è che posso fare niente, so. Ah, carrellino, ci vuole, no, non è per il carrellino. No, non è quello. Più che altro, stiamo cercando una persona per la processione, ecco, perché non ci sono io. Ah, ho capito. E vedo un po' allora, va bene, dai, vi saluto, dai, so. Buon proseguimento. Grazie alla piccola chiacchierata, che sempre mi fa sempre piacere. Ciao Macchi, saluto anche in casa. Ci sentiamo domani, se Dio vuole. Ok, Macchi, riprendi. Ehi, ciao Gian Maria, buonasera. Saluto in casa anche per te, i ricambiati. Buono quel RIT, buona cena, buono tutto. A domani, se Dio vuole. Avanti, Tone. Ok, ciao Gian Maria, ci sentiamo alle prossime. Ehi, così è to. Così. Ma quello là non c'ha radio, non vedi come cavolo fa. Ma per quello io te l'ho presto io, te lo do io la radio. Non è paghissimo. Ah, ci guardiamo se riusciamo a trovare qualche altra persona. Chiedo a vedere se c'è qualche altra persona che può venire. E a Marino voglio chiedere. Oggi non l'ho visto perché non l'ho incontrato neanche. Perché allora che mi ha chiamato io stavo andando in ospedale per una visita, dunque non ho potuto né sentire né vedere. Se domani lo vedo, glielo chiedo. E vedi se può venire. Oh, chiediamo a qualche altra persona. La sacciappa una tabassona. Sì, penso di sì. Penso la sapremmo. Ma Guido non va radio. Vendilo tu, io dopo. Glielo vendi. Quale gli vendo? Allora, un cieco. Lo lascio in audio. No, da voi le cazzo di radio mi hai dato. Non c'ha proprio le frequenze e cose, non ho già trattato, ma si ammazza, non ho già trattato. Quando è un uomo grande e grosso non riesce a far funzionare una radio. Ma chi, lo lascio a te, pronto nella frequenza dove devi andare. Tanto dovresti salire di una frequenza più su, una o due frequenze più su. Usiamo quella cosa, la 44, quello stiamo usando adesso. Ehi, il PMR. Ehi, il PMR è una cosa, il PMR. Ehi, però come abbiamo fatto l'anno scorso, andiamo una frequenza più su. Una frequenza più su, non ci sono problemi per quello. Basta impostare tu già la frequenza e io lo seguo poi quello lì. E io se no una frequenza più sotto è un mattesimo, tanto non va da nessuno in queste frequenze. Bisogna si è occupato da cosa, da che azienda. Ma tanto le aziende se lo adoperano, li stanno adoperando sul canale 1. Non lo so, non l'ho ascoltato, prima riuscivo a ascoltare, adesso non ascolto più. Sul canale 1 so sempre, io li stavo ascoltando l'altro giorno sul canale 1. Uno. E bisogna vedere un po' che frequenza è. Se ho segnato le ho perse, non so che intaggio butti. Allora, canale 1 è 446006. Non c'ho penna, insomma l'ho segnato. Non c'ho neanche la penna, è sparita, ragazzi. Troppo casotto c'è qua dentro. Bisogna che mi aggiorni un po'. Sì, che c'ho la stampante che non ho... Che devo mettere i cosi, devo mettere i cosi d'inchiostro. Anche se c'è la caricata non mi funziona ma stesso. Devo comprare le cose d'inchiostro, devo comprare. Sotto la via da Dio, Rugoso, per le frequenze. Le cartucce deve comprare in pratica. Sì, senza cartucce. Se no dovrò fare. Marino, faccile a Marino. Vediamo un po', o me le dai tu o me le dai a Marino, uno dei due riesco a frequentarle. Ehi, te lo do io uno. Ed è quello là, già impostato e tutto. Soltanto come te lo do, ti dico qual è la tua frequenza. Ehi. Va benissimo allora. Non me ne so problemi. Paghi su. Sa fanduchi su. Non lo so. Andare. Oh, ma sai che. Mi hanno chiamato per il coso della Sassa di Usilo. Sassa di Usilo? Ah, la cosa automobilistica. Ehi! Ma sono solo io, magari in due, tre siamo, però altra gente ci trovo. Se li trovate voi le persone con le radio, andate, se no pazienza. E adesso vediamo, già lo torno a chiamare. Andate. Ci chiamo, già siamo qua. Se siamo qua noi si chiamano. Non cosa le chiama il numero di telefono mio, boh? Prima di lasciare. Dai, vabbè, Bacchi, dai, ti lascio perché mi ci ha messo la signora. Vabbè, dai, ci sentiamo domani, se è andato tu bene. Ok. Ok, Tone, grazie della chiacchieratina, del piccoli passaggi. Buon correttivo, buona cena, saluta la signora, a domani si coincide. Anche io vorrei farsi il correttivo perché è ora di medicina anche per me. Ciao, Tone, buonanotte ancora. Ok, Bacchi, ciao. Bacchi. Chi è che chiamo avanti? Io, ho detto a Tone, poi gli metto la portante, gli metto, quando lui sale a Usilo a piedi. Se fa Usilo a piedi sale, mio Vittore, non ti credi? Antonio, lui sale a piedi. A piedi sale, oh, saranno. E allora, Tone, fa Sassa di Usilo a piedi? Meglio fare in macchina, dove a piedi, era da sopra. Sì. Dai Antonio, io mi sto avanti qui reti perché devo prendere le medicine, sono le 8. Ce la sentiamo Antonio, scusa se ti lascio, ma sono forzato. Ciao Antonio, buona serata. Sì, saluto a tutti e due, statevi bene.